Componimento 44esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Quei che in Tessaglia ebbe le man sì pronte a farla del civil sangue vermiglia, pianse morto il marito di sua figlia, raffigurato a le fattezze conte. E il pastor che a Golia ruppe la fronte, pianse la ribellante sua famiglia, e sopra il buon Saul cangiò le ciglia, ond'assai può dolersi il fiero monte. Ma voi che mai pietà non discolora, e ch'avete gli schermi sempre accorti contra l'arco d'amor che ndarno tira, mi vedete straziare a mille morti, né lagrima però discese ancora da be vostr'occhi, ma di sdegno ed ira. Fine del componimento.